Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola per un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena ora è quella di un cantautore sempre ai vertici delle classifiche. Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. È nato a Bologna nel 1980. Fin da piccolo inizia a studiare pianoforte. Nel 1996 forma un gruppo chiamato Senza Filtro. Poi il Luna Pop, con cui debutta nel 1999. Prima dell'estate il singolo di debutto 50 Special disco di platino, in autunno l'album Squares. Nel 2000 la band vince il Festival Bar, ma l'anno dopo si scioglie. Lui inizia l'avventura da solista. 5 album, tutti di grande successo. Nel frattempo si cimenta anche nel ruolo di attore, già sperimentato in una sitcom, recitando nel film Un amore perfetto e ne Il cuore grande delle ragazze, di Pupi Avati. A maggio 2009 esce il suo primo libro, Le ali sotto ai piedi. Nel 2015 pubblica il singolo Buon viaggio, uno dei 4 inediti del triplo CD Più che logico Live. Ne abbiamo parlato proprio con lui, la voce in scena di oggi, Cesare Cremonini. Ma innanzitutto penso che la musica oggi abbia bisogno di, da parte di chi la fa, di una certa generosità, perché ce n'è tantissima di musica e non si può dare per scontato che uno faccia un disco live e questo basti per ottenere certi risultati. Bisogna fare le cose in grande e bisogna darsi molto. E io in più non sono uno di mezze misure, nel senso che o è niente o è tutto. E allora mi sono messo a scrivere canzoni perché volevo dare delle canzoni nuove per questo progetto. E una volta che mi è uscito Buon viaggio, poi mi è uscito Lost in the Weekend, che era un altro inedito molto importante di questo disco, e ho capito a quel punto che avrei potuto continuare all'infinito e fare un album. Allora ho deciso di fare un mini album, qualcosa che avesse un particolare valore, un peso specifico importante da poter inserire in questo triplo disco. E così penso che questo album, questo cofanetto, sia proprio uno scrigno di tesori. L'ho curato fino al minimo dettaglio, ho voluto inserire persino un piccolo racconto che ho scritto io su quello che significa per me affrontare, vivere e condividere un tour, e quindi questo era il modo, perché era il modo che ho trovato per dare valore a quello che faccio. Gli inediti sembrano tutte canzoni da movimento, no? Buon viaggio, poi il weekend, il viaggio, poi è 46, anche lì c'è una bella partenza. Il viaggio è una parte fondamentale della mia vita ed è anche una parte fondamentale della mia scrittura. E il movimento, cioè inteso come proprio il ritmo, è una parte fondamentale della musica che amo ascoltare. In questo momento mi interessa molto il ritmo. La parola è fondamentale perché siamo in Italia e in Italia è necessario dare attenzione alle parole. Siamo troppo... non dico in maniera esagerata, ma siamo davvero, come dire, un paese che secondo me, quando utilizza la parola in un certo modo, premia una canzone, premia l'ascoltatore. Amore nei testi, anche sentimenti, bello, mi piace, c'è sempre un po', sempre con un po' di ironia anche in questi inediti. Sì, c'è un po' di ironia. C'è una canzone quasi quasi che parla di quel momento in cui stai proprio quasi quasi per, no, lasciarla, però non metterti insieme. È il momento di passaggio che mi interessa, perché è il momento in cui puoi scrivere una canzone. Quando vivi, il momento migliore per scrivere, almeno per me, è l'indecisione, quando hai bisogno di scrivere qualcosa per capire cosa fare. E quindi quasi quasi è una canzone ispirata, sicuramente un po' di ironia, perché comunque quando dice se vuoi ti porto al cinema però non per i baci, insomma è questa presa un po' per il culo che c'era anche in Grey Goose, Amore buongiorno, quando ti levi di torno. Esatto, esatto, lì volevo arrivare. Sì, perché ci sono stati un sacco di poeti che sono stati ispirati dalle delusioni, dalle sofferenze, si prendevano molto più sul serio però. Beh, diciamo che le canzoni che tengono il muso sono un classico, approfittano un po' della voglia di lamentarsi che abbiamo tutti. Io però non ci tengo a fare canzoni che tengono il muso, perché poi Insomma, già abbiamo troppe persone che di fianco che tengono il muso, poi se ci mettiamo anche le canzoni poi diventa un po' pesante l'aria, no? Secondo me bisogna respirare leggerezza, nella leggerezza cerco molto molto contenuto. Mi piace molto questa idea delle canzoni che tengono il muso e le canzoni che non tengono il muso. Le tue non hanno mai tenuto il muso? Beh, non lo so, queste ultime proprio no. Queste ultime non gli va di tenere il muso, non si girano dall'altra parte, dicono uffa, hai capito? Ti guardano in faccia, che è la cosa più importante. C'è sempre anche tanto immaginario. L'altra volta era la Grey Goose, che a tanti hai dovuto spiegare cos'era. Adesso appare il Totocalcio. Appaiono sempre delle cose di immaginario pop. Io sono impazzita per La chiamerei malinconia o crisi. È come scegliere tra Blur e Oasis. Solo tu potevi tirare fuori una rima così, perché non esiste in natura, che bisogna aggiungere a rimario. Devo dirti che gli inglesismi per fare rima con l'italiano è una cosa che mi porto dietro da quando facevo rima con Benson and Edge in Un giorno migliore. Sai che ci ho messo dei mesi all'epoca a capire che cosa dicessi, perché dicevo di una boh. Lo so, c'era una ragazza che mi aveva scritto una mail e mi chiedeva se dicevo lavatrice. C'è gente che ha sentito frasi che non esistevano. Non lo so, però me l'ha scritta. Ognuno ha sentito quello che voleva. Però sai, per noi fan degli Oasis in quel periodo, gli Oasis fumavano Benson and Edge. Come Freddie Mercury che fumava le Silk Cut, che però erano cattivissime, quindi non che poi la rima Silk Cut, no, ci sono un po' di robe, ci sono un po' di robe con cui fa rima, ma non le diciamo. Comunque diciamo che questa roba, questo modo di scrivere è un modo di scrivere che mi appartiene molto. Tra l'altro lo condivido con un artista, con un ragazzo con cui mi diletto a dialogare artisticamente, che è Davide Petrella. Le strisce, sì, ed è secondo me un grande talento. Nel mio lavoro un dialogo è molto utile, serve molto, per andare più veloci soprattutto, perché io quando parlo con me stesso sono veramente severo e quando parlo con gli altri invece mi lascio più andare, è come se fosse una forma di distrazione che mi regalo, e sto scrivendo tante parole anche insieme a lui e mi dà una grossa mano perché è proprio fatto su misura per me quel modo di scrivere che ha, e siamo la stessa persona sul foglio bianco, e questo è E ho trovato un collaboratore veramente raro per me. Beh, le coppie poi per scrivere la musica hanno fatto la storia, sì. Lennon McCartney, Mogol Battisti, la coppia è... Gabber Luporini, certo. Sono il dialogo nella coppia è importante. Il dialogo è fondamentale e queste durano anche di più di quelle normali. Sì. Quando parte questa ti si spacca qualcosa dentro da spettatore. Sì, bisogna che questo accada poi, tra l'altro, perché è il mio dovere, perché se non ti si spacca niente dentro io ho perso la mia battaglia, quindi è un mio dovere fare in modo che questo accada, e se non accade ho fallito. E poi ci si chiede sempre cosa prova un artista in quel momento, perché tutti noi ci immaginiamo bello fare l'artista, però poi quando ci pensi bene dici no, ma io di fronte a una cosa del genere credo che sverrei, cioè non riuscirei mai ad affrontare quella botta così forte. E tu per la prima volta hai deciso di spiegarlo, l'hai fatto nel booklet bellissimo che hai messo nel cofanetto Più che logico. Grazie. Ti sei proprio raccontato, è un racconto di quei... non solo quei momenti, proprio della giornata. Ti svegli la mattina, la sera avrai il concerto, sì. E passa qualsiasi emozione, qualsiasi sensazione, provi qualsiasi cosa dentro di te e hai cercato di raccontarle. Sì. Intanto ti chiedo non è facile decidere di tirar fuori tutto. Un concerto non è soltanto quelle due ore, il pubblico si sveglia la mattina e l'artista si sveglia la mattina probabilmente più o meno nella stessa maniera, con le stesse agitazioni, poi loro si ripetono le canzoni a memoria, incontrano gli amici e tu vai a fare le prove e le canti. Io te lo dico da, io ti rispondo da fan che è venuta a sentire il tuo concerto, sì, ho fatto tutto questo. C'è un percorso parallelo, no? Che poi trova la sua definizione migliore quando questi due percorsi si uniscono e inizia il concerto. Volevo che il pubblico capisse che cosa si prova ad aspettare loro, siccome anche loro fanno lo spettacolo insieme a me, e quello che ho scritto è davvero senza freni, nel bene e nel male, nella gioia e nella paura, quello che ho provato. La mia nonna, io sono brianzola, mi diceva: vedi, qui dalla Brianza tu però sei arrivata a parlare alla radio, che per lei era un mondo assolutamente sconosciuto. E sì, ho sorriso quando tu hai scritto: come hanno fatto ad accorgersi di me persone così lontane, puntini puntini, che fanno cose così diverse in luoghi così differenti dalla mia natura emiliana. È un po' lo stesso ragionamento della mia nonna. Sì, c'è un po' una nonna dentro io che parla quando penso. Perché è lo stupore del dire: io ero là in un luogo. Sì, anche perché poi l'Emilia è davvero una piccola, almeno secondo me, isola felice da un certo punto di vista. Io a Bologna mi sento posizionato su un palco privilegiato, cioè su una sorta di terrazza dal quale si può guardare agli altri, alle mode che passano, alle cose che in qualche modo investono la società italiana da un punto di vista un pochino così, che ti permette di dire: ne faccio parte oppure me ne sto fuori, no? Ti dà questo potere, secondo me, essere emiliani. E allora quando poi dopo mi trovo a Milano in questi grandi concerti o in giro per l'Italia, sento molto forte la differenza fra il punto di partenza e il punto in cui sono arrivato. Ci sono certi artisti che poi vanno a vivere in luoghi più lontani per dire: voglio fare una vita normale. E... ma io faccio già una vita molto normale a Bologna, anzi la proteggo quel luogo, perché mi sembra che sia l'unico posto in cui io posso riuscire a fare una vita davvero molto normale. Poi adesso Bologna in questo momento mi sta dando un affetto talmente forte, dovresti passarci un weekend con me a Bologna per vedere cosa succede, nel senso che c'è proprio una mi sorregge, ecco, questa città soffia sulle mie vele, e mi sento in vento di poppa quando cammino, per cui, che non vuol dire, sai, l'applauso per strada, è proprio una sensazione che respiri nel luogo in cui sei, ti vogliono bene. Questo è un grande aiuto per chi fa il mio mestiere, perché hai bisogno di sentirti un po' sorretto per guardare le tue cose senza dovertene preoccupare troppo per riuscire a farle bene. Bologna si era sentita molto orfana avendo perso Lucio Dalla. Secondo me può essere che le due cose sono collegate, non perché sia collegata la mia capacità artistica con quella di Lucio, che è inarrivabile, ma perché penso che in effetti potrebbe essere che Bologna ha perso questo straordinario genio che era un simbolo enorme della bolognesità, veda in me la possibilità di tifare per me, per vedere se c'è qualcosa di buono da poter tenere per lungo tempo, e io sono molto grato a Bologna per questo, sebbene sappia che Lucio era inarrivabile e nessuno riuscirà, secondo me, forse mai più a raggiungere vette come quelle che ha raggiunto lui. Ed è tutto per questa puntata di Voci in Scena. Con noi Cesare Cremonini, ci ritroviamo domani con un altro appuntamento alla stessa ora.